Gli argomenti allegri del signor Hale erano esauriti. Qualche doloroso ricordo si era intrufolato nella sua mente, costringendolo al silenzio. Poco dopo, Margaret disse: "Papà, hai visto Nicholas Higgins al funerale? Era lì e c'era anche Mary. Poveretto, è stato il suo modo di mostrarci la sua partecipazione. Nasconde un cuore tenero dietro quei suoi modi apparentemente bruschi." "Oh, ne sono certo," rispose il signor Hale. "L'ho sempre visto, anche quando cercavi di convincermi di tutti i suoi difetti. Andremo a trovarli domani, se sarai abbastanza in forze per camminare fin là." "Oh, sì, voglio vederli. Non abbiamo dato soldi a Mary, o meglio, si è rifiutata di prenderli," ha detto Dixon. "Cercheremo di essere lì per incrociarlo quando finisce di mangiare, prima che vada a lavorare." Verso sera il signor Hale disse: "Un po' mi aspettavo che il signor Thornton sarebbe passato. Ieri mi ha parlato di un suo libro che volevo vedere, ha detto che avrebbe cercato di portarlo qui oggi." Margaret sospirò, sapeva che non sarebbe venuto, era troppo garbato per correre il rischio di incontrarla quando la vergogna di cui si era macchiata doveva essere ancora così fresca nella sua mente. La sola menzione del suo nome rinnovò la sua inquietudine, facendola ripiombare nella depressione e nell'ansia. Si lasciò andare a un apatico torpore. Improvvisamente le venne in mente che era uno strano modo quello di dimostrare la sua sopportazione o di ricompensare il padre per le cure attente che le aveva prestato tutto il giorno. Si mise a sedere e si offrì di leggere qualcosa a voce alta. A lui si chiudevano gli occhi e accettò la proposta con piacere. Leggeva bene, dava la giusta enfasi, ma se qualcuno le avesse chiesto alla fine il significato di quello che aveva letto, non avrebbe saputo rispondere. La tormentava l'ingratitudine nei confronti del signor Thornton a tal punto che quella mattina si era rifiutata di riconoscere il favore che le aveva fatto nel chiedere ai medici ulteriori informazioni in modo tale da evitare che fosse condotta un'inchiesta. Oh sì, che era grata. Era stata vigliacca e falsa e aveva mostrato la sua vigliaccheria e la sua falsità nel compiere un'azione che non poteva ormai cancellare, ma non era un'ingrata. Avvertiva un tuffo al cuore al pensiero di come si sarebbe potuta sentire di fronte a una persona che aveva ragione di disprezzarla. La ragione di quel disprezzo era talmente giusta che lo avrebbe rispettato di meno se avesse pensato che non lo provava. Era piacevole sentire quanto la sua stima per lui, come il rispetto, fosse assoluta. Non riusciva a fare a meno di provarla, era l'unico conforto in tutta quella sofferenza. Più tardi quella sera, l'atteso libro arrivò con i cari saluti del signor Thornton e il desiderio di sapere come stesse il signor Hale. "Di che sto molto meglio, Dixon, ma la signorina Hale..." "Oh no, papà!" disse Margaret con una certa foga. "Non dire nulla di me, non lo chiede." "Piccola mia, ma tu stai tremando," disse suo padre qualche minuto dopo. "Devi andare subito a letto, sei diventata molto pallida." Margaret non obiettò, sebbene non volesse lasciare suo padre da solo. Aveva bisogno del conforto della solitudine dopo una giornata di pensieri e soprattutto di pentimenti faticosi. Ma il giorno successivo sembrò essere tornata alla normalità. La tristezza grave e persistente, insieme all'occasionale distrazione, erano i segni naturali dei primi giorni di cordoglio, e mentre lei si era rimessa in salute in modo quasi proporzionale, il padre era ripiombato nella sua stranita meditazione sulla perdita della moglie e su quel passato che gli sarebbe rimasto accanto per sempre. 36. Non sempre l'unione fa la forza. All'ora prestabilita il giorno precedente si incamminarono per andare a trovare Nicholas Higgins e sua figlia. Entrambi ritornavano con la mente alla recente perdita, provando una strana timidezza in quella nuova veste e nel fatto che era la prima volta, dopo parecchie settimane, che avevano deciso di uscire insieme. Si tenevano stretti l'uno all'altra in tacita comprensione. Nicholas era seduto nel solito angolo vicino al fuoco, ma senza la solita pipa. Si reggeva il capo con una mano, mentre l'altro braccio era rilassato sul ginocchio. Non si alzò quando li vide, anche se Margaret poté leggere il benvenuto nei suoi occhi. "Sedetevi, sedetevi, il fuoco è quasi andato," disse, mettendosi ad attizzarlo vigorosamente come per distogliere l'attenzione da sé. Era alquanto in disordine, senza dubbio, con la lunga barba nera che non faceva da giorni e che rendeva il suo pallido viso ancora più pallido, e con una giacca che sarebbe stato meglio rattoppare. Abbiamo pensato che avremmo avuto buone probabilità di trovarvi subito dopo cena, disse Margaret. Abbiamo avuto anche noi il nostro dolore da quando ci siamo visti, disse signor Hale. Già, già, ci sono più lutti che cene di questi tempi. Mi sa che la mia pausa per la cena andrà avanti tutto il giorno, state certi che mi trovate. Siete senza lavoro? Chiese Margaret. Eh sì, rispose brevemente. Poi, dopo un momento di silenzio, aggiunse, alzando lo sguardo per la prima volta: Non ho bisogno di soldi, non pensateci neanche. Bess, povera ragazza, ne teneva un po' di scorta sotto il suo cuscino, pronta a infilarmeli in mano all'ultimo momento, e Mary taglia le pezze di fustagno, ma io sono senza lavoro lo stesso. Dobbiamo dei soldi a Mary, disse il signor Hale, prima che la forte pressione che Margaret esercitò sul suo braccio potesse fermare quelle parole. Se li prende la sbatto fuori di casa. Dentro queste quattro mura ci abiterò solo io e lei se ne starà fuori, punto. Ma le siamo molto riconoscenti per il gentile servizio che ci ha prestato, ricominciò il signor Hale. Non l'ho mica ringraziata io, vostra figlia, qui, per i suoi gesti d'affetto per la mia povera ragazza. Non ci sono mai riuscito a trovare le parole. O devo mettermi a provare adesso, se iniziate a fare tante storie per quel poco che la piccola Mary ha fatto in casa vostra. È a causa dello sciopero che siete senza lavoro? Chiese gentilmente Margaret. Lo sciopero è finito per stavolta. Sono senza lavoro perché non l'ho mai cercato, e non l'ho mai cercato perché di parole buone ce ne sono poche, e di parole cattive ce ne sono un sacco. Era in vena di divertirsi in modo sgarbato, con risposte che sembravano degli indovinelli, tuttavia Margaret vide che desiderava gli fosse chiesta la spiegazione. E le parole buone sono? Chiedere lavoro. Penso che sono le parole migliori che un uomo può dire. Datemi un lavoro, significa, e io lo farò da uomo. Queste sono parole buone. E le parole cattive sono quelle che vi negano il lavoro quando lo chiedete? Già, le parole cattive sono, ah, signor mio, tu sei stato leale con i tuoi e io sarò leale con i miei. Hai fatto del tuo meglio per quelli che avevano bisogno di aiuto, ma questo è il tuo modo di essere leale coi tuoi, e io sarò leale coi miei. Sei stato un povero scemo che non ha saputo far di meglio che essere uno scemo leale fino in fondo, quindi sparisci e vattene al diavolo, non c'è lavoro per te qui. Queste sono le parole cattive. Non sono uno stupido, e se lo sono, la gente me lo doveva insegnare come si faceva a essere intelligenti secondo loro. Magari capitava che imparavo qualcosa, se qualcuno cercava di insegnarmi. Oh, non ne varrebbe la pena, domandò il signor Hale, di chiedere al vostro vecchio padrone di assumervi di nuovo. Magari è una possibilità remota, ma è sempre una possibilità. Sollevò di nuovo lo sguardo, lanciando un'occhiata tagliente a chi gli aveva fatto la domanda, e poi si mise a ridacchiare piano e con amarezza. Padrone. Se non vi offendete, ve le faccio anche un paio di domande. Molto volentieri, disse il signor Hale. Penso che vi guadagnate il pane in qualche modo. La gente di rado vive a Milton per piacere, se può vivere da un'altra parte. Avete ragione. Possiedo qualche bene di proprietà, ma sono venuto a Milton con l'intento di diventare un precettore. Per insegnare alla gente. Bene. E vi pagano, credo, per le vostre lezioni, giusto? Sì, rispose il signor Hale sorridendo. Insegno con lo scopo di essere pagato. E quelli che vi pagano vi dicono forse cosa fare o cosa non fare con i soldi che vi danno come giusta ricompensa per le vostre fatiche, come equo scambio? No, certo che no. Non vi dicono, puoi anche avercelo un fratello o un amico caro come un fratello che c'ha bisogno di questa grana qui per uno scopo che vi pare giusto a tutti e due, ma tu devi promettere che non glieli dai. E magari a te ti pare che questo è un buon uso dei tuoi soldi, ma a noi non pare buono per niente. Quindi, se li spendi così, con noi hai chiuso. Questo non ve lo dicono, vero? No, certo che no. E se ve lo dicono, lo sopportereste? Dovrei subire una pressione davvero forte per poter anche solo pensare di sottomettermi a un tale comando. Non c'è pressione al mondo che me lo farebbe fare a me, disse Nicholas Higgins. Adesso ci siete, avete centrato il bersaglio. Humper, lavoravo da lui, vincola i suoi operai a non dare neanche un penny al sindacato. O a non aiutare gli scioperanti a non morire di fame. Possono costringere e obbligare, continuò in tono sprezzante. Non fanno altro che creare bugiardi e ipocriti. E secondo me il male minore è quello di indurire così tanto il cuore degli operai che non farebbero mai qualcosa di gentile per quelli che ci hanno bisogno e neanche darebbero il loro aiuto per una causa più che giusta. Anche se va contro il potere. Che il re venga anche a darmi tutto il lavoro che vuole, ma io le mie idee non le tradisco. Faccio parte del sindacato e penso che è l'unica cosa al mondo che fa del bene agli operai e io gli scioperi li ho fatti e so cosa vuol dire fare la fame e se prendo uno scellino la metà gliela do a loro se me lo chiedono. Il punto è che uno scellino non so dove andarlo a trovare. La regola di non dare contributi al sindacato viene applicata in tutte le fabbriche? Chiese Margaret. Non so dirlo. È una nuova regola per noi e secondo me si accorgeranno anche che non riescono a mantenerla, ma adesso è in vigore. Presto lo scopriranno che i tiranni producono bugiardi. Ci fu una breve pausa. Margaret non sapeva se era il caso di dire quello che pensava. Non voleva irritare una persona che era già abbastanza scoraggiata e abbattuta. Alla fine però lo fece, ma con il suo tono dolce e con i suoi modi discreti, mostrando che non era sua intenzione dire nulla di spiacevole, non sembrò irritare Higgins, ma confonderlo. Vi ricordate il povero Boucher, che diceva che il sindacato era un tiranno? Credo abbia detto che tra tutti i tiranni è il peggiore, e ricordo che quella volta ero d'accordo con lui. Higgins rispose dopo una lunga pausa. Si teneva la testa con entrambe le mani e guardava il fuoco giù in basso e lei non riusciva a vedere l'espressione sul suo volto. «Non lo nego, ma il sindacato ritiene necessario forzare gli uomini a fare il loro bene. Ah, parlerò onestamente. Un uomo che non è nel sindacato fa una vita dura, ma quanto a questo, una volta che entra, il sindacato si prende cura dei suoi interessi meglio di quanto può fare lui per se stesso o da solo». Quello di unirsi è l'unico modo che i lavoratori hanno per avere i loro diritti. Più sono i membri, più aumentano le possibilità per ognuno che gli sia fatta giustizia. Il governo si prende cura dei matti e dei dementi, e quindi se un uomo tende a fare del male a se stesso o al suo vicino, si fa qualche controllo su di lui, che gli piaccia o no. Questo è tutto quello che facciamo nel sindacato. Non possiamo sbattere un uomo in prigione, ma possiamo rendergli la vita così insopportabile che è obbligato a iscriversi. E essere prudente e servizievole anche se non vuole. Boucher è sempre stato uno stupido, ma l'ultima volta ha raggiunto il limite. «Vi ha fatto del male?» chiese Margaret. «Se l'ha fatto. Avevamo l'opinione pubblica dalla nostra parte finché lui e altri come lui hanno iniziato a ribellarsi e a infrangere la legge, quindi lo sciopero è finito. Allora non sarebbe stato meglio averlo lasciato stare?» Invece di costringerlo a entrare nel sindacato, non vi ha portato nulla di buono e voi lo avete fatto ammattire. Margaret, disse il padre a voce bassa per metterla in guardia, poiché vide che la faccia di Higgins si stava adombrando. Lei mi piace, disse Higgins improvvisamente. Dice chiaramente quello che pensa. E con tutto questo il sindacato non lo capisce. È un potere forte, è l'unico potere che abbiamo. Ho letto una poesia su un aratro che passava sopra una margherita che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi prima di avere altri motivi per piangere. Ma il ragazzo non ha fermato l'aratro, ve lo assicuro, anche se era tanto addolorato per la margherita. Aveva troppo buon senso per farlo. Il sindacato è l'aratro che prepara il terreno per il raccolto. Uno come Boucher mi sa che si monta troppo la testa se lo paragona a una margherita. Assomiglia di più all'erbaccia che se ne sta lì sul terreno a non far niente. Deve solo decidersi a togliersi di mezzo. Ce l'ho a morte con lui in questo momento. E così mi capita di non parlare bene di lui. Mi viene voglia di passarci sopra io, su di lui, con l'aratro. Ci avrei tutto il gusto del mondo. Perché? Che cosa ha fatto? Qualcosa di nuovo? Già, sicuro. Di guai ne combina sempre quell'uomo. Prima va in giro arrabbiato come un pazzo scatenando una sommossa. Poi è dovuto sparire dalla circolazione. E sarebbe ancora nascosto se Thornton gli dava la caccia, come speravo io. Ma Thornton, che aveva i suoi motivi, non era interessato ad andare avanti con l'incriminazione per la sommossa, così Boucher è tornato a casa di nascosto. Non si è fatto vedere in giro per uno o due giorni. Ha avuto questa accortezza. E poi? Dove è andato, secondo voi? Beh, da Humper. Maledetto. Si è presentato lì con quella sua faccia da ipocrita che se la guardo mi viene da vomitare... a chiedere lavoro, anche se sapeva bene della nuova regola di promettere di non dar niente al sindacato. Niente per aiutare gli scioperanti che facevano la fame. Beh, Lui sarebbe morto di fame se il sindacato non l'aiutava nel suo momento di crisi. Ci è andato disposto a promettere tutto, a impegnarsi su qualsiasi cosa, a dire tutto quello che sapeva di noi quel buono a nulla di un Giuda. Ma su Humper, questo lo devo dire e lo ringrazierò fino a quando campo, perché ha mandato via Boucher, non ha voluto ascoltarlo nemmeno una parola, anche se quelli che erano lì dicono che il traditore piangeva come una creatura. Oh, ma è sconvolgente, che tristezza! Esclamò Margaret. Higgins, non vi riconosco oggi. Non vedete che siete stato voi a ridurre Boucher così, costringendolo a entrare nel sindacato contro la sua volontà, senza che se la sentisse? Siete stato voi a farlo diventare quello che è. A farlo diventare quello che è. E com'era? Dalla stradina proveniva un suono cupo e ritmato che cresceva sempre di più. Ora questo suono si imponeva alla loro attenzione. Le voci vennero placate e zittite, si udirono tanti passi che non procedevano in avanti, perlomeno non con movimenti rapidi e regolari, ma che giravano come attorno a un unico punto. Sì, ci fu uno scalpiccio di piedi, lento e distinto, che si fece spazio nell'aria e raggiunse le loro orecchie. Era l'andatura cadenzata di uomini che trasportano un pesante fardello. Furono tutti attirati verso la porta di casa da un qualche irrefrenabile impulso, spinti in quella direzione non dalla semplice curiosità, ma come da un richiamo solenne. Sei uomini camminavano in mezzo alla strada, tre di loro erano poliziotti. Trasportavano sulle loro spalle una porta scardinata sulla quale giaceva il cadavere di un uomo. Entrambi i lati della porta gocciolavano ininterrottamente. Tutte le persone per strada si voltavano a guardare e a quella vista si univano alla processione, ciascuno facendo domande ai portantini che alla fine rispondevano con una certa riluttanza, dopo aver già raccontato tante volte la storia. Lo abbiamo trovato nel torrente, nel campo là dietro. Nel torrente? Beh, c'è poca acqua lì per annegare. L'uomo era determinato, era disteso faccia in giù, era stufo marcio di vivere qualsiasi motivo avesse. Higgins strisciò accanto a Margaret e disse, mettendo una specie di debole acuto: Non è John Boucher! No, non ha abbastanza fegato, sicuro! Non è John Boucher! Perché guardano tutti di qua? Ascoltate, c'ho un fischio nell'orecchio e non riesco a sentire! Appoggiarono cautamente la porta per terra sui ciottoli e tutti poterono vedere il poveretto che era annegato. Gli occhi vitrei, mezzi aperti, erano rivolti al cielo. Aveva la faccia gonfia e bianca dovuta alla posizione in cui era quando l'avevano trovato. Per di più la pelle era stata macchiata dall'acqua del torrente che era stato usato per tingere. Sul davanti la testa era calva, ma dietro aveva capelli lunghi e sottili, separati in ciocche, ciascuna delle quali era diventata un canale per l'acqua. Nonostante fosse così sfigurato, Margaret riconobbe John Boucher. Le parve un tale sacrilegio scrutare quel poveretto deformato e straziato che, con un gesto istintivo, si fece avanti e con il suo fazzoletto coprì delicatamente il volto del defunto. Gli occhi che la videro compiere quel gesto la seguirono mentre si allontanava dal suo pietoso ufficio e vennero quindi condotti nel punto in cui Nicholas Higgins si trovava come inchiodato al suolo. Gli uomini si parlarono e poi uno di loro andò da Higgins, che sarebbe stato contento di scappare dentro casa. Higgins, tu lo conoscevi? Devi andarci tu a dirlo alla moglie. Cerca di essere delicato, ma fallo subito perché non possiamo lasciarlo qui a lungo. Non ce la faccio ad andare, disse Higgins. Non chiedetemelo, non posso guardarla in faccia. Sei quello che la conosce meglio, disse l'uomo. Noi abbiamo già fatto tanto per portarlo fin qui, ora fa anche tu la tua parte. Non posso farlo, disse Higgins. Sono già distrutto per averlo visto, non eravamo mica amici. E adesso è morto. Bene, se non vuoi, non vuoi. Qualcuno però ci deve andare, è un duro compito, ma può venirlo a sapere da un momento all'altro in una maniera ancora più brutale se nessuno va da lei a dirglielo piano, piano, diciamo. Papà, vai tu, disse Margaret sottovoce. Se potessi, se avessi il tempo di pensare a cosa sarebbe meglio dire, ma così all'improvviso. Margaret vide che suo padre non era in grado di farlo. Stava tremando dalla testa ai piedi. Ci andrò io, disse. Oh, Dio vi benedica, signorina, è un bel gesto, perché ho sentito dire che è una sempre ammalata e qui in giro non si sa niente di lei. Margaret bussò alla porta chiusa, ma ci fu un tale baccano come di tanti bimbetti ai quali nessuno badava che non riuscì a sentire nessuna risposta. In realtà dubitava che la potessero sentire, e poiché più il tempo passava, più lei rifuggiva al suo compito. Aprì la porta ed entrò, richiudendola dietro di sé, dopodiché, senza essere vista dalla donna, tirò su il catenaccio. La signora Boucher era seduta su una sedia a dondolo dalla parte opposta del caminetto, malamente acceso. Pareva come se da giorni nessuno avesse fatto alcuno sforzo per pulire la casa. Margaret disse qualcosa, ma appena sapeva cosa, talmente secche erano la gola e la bocca, e il chiasso dei bambini le impedì completamente di essere udita. Provò di nuovo. Come state, signora Boucher? Non molto bene, temo. Non posso stare bene, rispose lamentandosi. Mi hanno lasciata qui da sola a tirar su sti bimbi, senza niente da dargli per farli stare buoni. John non mi doveva lasciare, io sto così male. Da quanto tempo è via? Da 4 giorni. Qui nessuno voleva dargli un lavoro e lui è dovuto andare a piedi verso Greenfield, ma poteva anche tornare prima o mandarmi 2 righe per dirmi che aveva trovato lavoro. Poteva. Oh, non incolpatelo, disse Margaret. Ha sicuramente pensato di farlo, ne sono certa. E piantala di fare baccano e fammi sentire cosa dice la signora. Rivolgendosi con tono non proprio gentile a un piccolo monello di circa un anno, proseguì scusandosi con Margaret. Continua a seccarmi con papi e pane e burro, e io di pane e burro non ne ho da dargli. E il papà è via. Ci ha dimenticati, secondo me. È il tesoruccio di suo padre, lui, disse cambiando improvvisamente umore e mettendosi il bambino sulle ginocchia si mise a dargli affettuosi baci. Margaret posò la mano sul braccio della donna per richiamare la sua attenzione e i loro occhi si incontrarono. Povero piccolo, disse Margaret lentamente. Era il tesoruccio di suo padre. È il tesoruccio di suo padre, disse la donna alzandosi subito in piedi e mettendosi di fronte a Margaret faccia a faccia. Nessuna delle due disse nulla per 1 o 2 minuti, dopodiché la signora Boucher riprese a parlare con voce cupa, simile a un ringhio, diventando via via più fuori di sé. Il tesoruccio di suo padre! Ho detto, i poveri, i loro figli li amano come i ricchi! Perché non parlate? Perché mi fissate con quei grandi occhi pieni di pietà? Dov'è John? Sebbene fosse debole, si mise a scuotere Margaret per forzarla a rispondere. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Disse capendo il significato di quello sguardo lacrimoso. Sprofondò nella sua sedia. Margaret prese il bambino e glielo mise in braccio. Lui lo amava, disse. Sì, disse la donna scuotendo il capo. Ci amava tutti. Abbiamo avuto qualcuno che ci ha amati una volta. È stato tanto tempo fa, ma quando era in vita e qui con noi ci ha voluto veramente bene, davvero. E questo figlio gli ha voluto magari più bene che a noi, ma lui mi amava e io amavo lui, anche se 5 minuti fa gli urlavo dietro. Siete sicura che è morto? Disse tentando di alzarsi. Se è solo che sta male e sta per morire, magari possono ancora farlo rinvenire. Io stessa sono malata. Sono stata malata per tutto questo tempo, ma è morto, è annegato. Ma certa gente viene fatta tornare in vita dopo che è morta annegata. Oh, ma cosa sto pensando? Me ne sto seduta qui tranquilla quando invece dovrei muovermi. Zitto, bambino mio, stai zitto. Prendi questo, prendi qualcosa per giocare, ma non piangere che mi si sta spezzando il cuore. Oh, dove è andata la mia forza? Dove? Oh, John, marito mio! Margaret la prese tra le braccia mentre stava per cadere. Si sedette sulla sedia a dondolo, tenendo sulle ginocchia quella donna che aveva la testa sulla sua spalla. Gli altri bambini, stretti l'uno all'altro per la paura, iniziarono a comprendere quella misteriosa scena, ma le idee arrivavano con una certa lentezza, poiché i loro cervelli avevano riflessi lenti e deboli. E scoppiarono in un pianto così disperato quando indovinarono la verità che Margaret non sapeva come fare per sopportarlo. Johnny piangeva più forte di tutti, anche se non sapeva perché, povero piccolo. La madre tremava tra le braccia di Margaret. La ragazza sentì un rumore alla porta, Vai ad aprire, sbrigati, disse al bambino più grande. È chiusa con il catenaccio, non fare rumore, fai molto piano. Oh, papà, falli andare di sopra molto adagio e con cautela, magari non li sente. È svenuta, tutto qua. Meglio così per lei, poverina, disse una donna entrando al seguito degli uomini che trasportavano il morto. Ma non ce la fate a tenerla. Aspettate, corro a prendere un cuscino e la mettiamo distesa, comoda, giù sul pavimento. Questa vicina, tanto disponibile, fu per Margaret un grande aiuto. Si vedeva che era un'estranea in quella casa, che era arrivata da poco in quel quartiere, ma era così gentile e premurosa che Margaret pensò che il suo aiuto non servisse più e che sarebbe stato meglio, forse, dare il buon esempio e lasciare la casa, che era piena di curiosi indolenti, seppur solidali. Si guardò attorno per cercare Nicholas Higgins. Non era lì. Quindi si rivolse alla donna che aveva preso l'iniziativa di distendere la signora Boucher sul pavimento. Potete suggerire a tutte queste persone che farebbero meglio lasciarla tranquilla, così quando riprenderà i sensi troverà soltanto uno o due conoscenti attorno a lei. Papà, puoi dire agli uomini di andare via? Non riesce a respirare, povera creatura, con tutta questa folla intorno. Margaret era inginocchiata per terra accanto alla signora Boucher e le stava bagnando il viso con dell'aceto. Fu sorpresa di avvertire aria nuova in così pochi minuti. Si guardò attorno e vide che il padre e la donna si sorridevano. «Che succede?» chiese. «Oh, solo che la nostra cara amica qui», rispose il padre, «ha trovato un ottimo espediente per svuotare la casa». Li ho pregati di uscire e portarsi via un bambino ciascuno e di pensare che erano orfani e che la loro madre era vedova. Si sono offerti tutti. Uno poteva fare più dell'altro e i bambini avranno di sicuro il pancino pieno oggi, anche di coccole. Lo sa com'è morto? No, disse Margaret, non sono riuscita a dirle tutto subito. Bisogna diglielo perché ci sarà un'inchiesta. Guardate, sta riprendendo i sensi. Lo fate voi o lo faccio io? O magari è meglio vostro padre. Oh no. Voi, fatelo voi, rispose Margaret. Aspettarono in silenzio che si riprendesse del tutto, dopodiché la vicina di casa si sedette sul pavimento e si mise la testa e le spalle della signora Boucher sul grembo. Vicina, disse, vostro marito è morto. Sapete com'è morto? È annegato, replicò la signora Boucher con voce flebile, mettendosi a piangere per la prima volta questa brusca e inquisitoria domanda sulle ragioni del suo dolore. L'hanno trovato annegato. Stava tornando a casa, senza più nessuna speranza al mondo. Ha pensato che Dio non doveva essere più duro degli uomini. Forse non è così duro. Forse è tenero, come una madre. Forse è anche più tenero. Non dico che ha fatto bene, non dico che ha fatto male, dico solo che spero che né a me né ai miei cari ci capiti mai di avere un cuore così addolorato, altrimenti forse facciamo la stessa cosa. Oh, mi ha lasciata da sola con tutti questi figli! Si lamentò la vedova, meno sconvolta dal modo in cui era morto di quanto Margaret si aspettasse. Ma sentire che la sua perdita colpiva prima di tutto lei e i suoi figli era coerente con la sua natura indifesa. «Non siete soli», disse il signor Hale solennemente. «Chi è con voi? Chi è colui che vi difenderà?» La vedova spalancò gli occhi e guardò il nuovo interlocutore, della cui presenza non si era accorta prima. «Chi è colui che ha promesso di essere un padre per gli orfani?» continuò il signor Hale. «Ma ho 6 figli, signore, e il più grande non ha ancora 8 anni». Non lo dico perché dubito del suo potere, signore, è solo che ce ne vuole tanta di fede. E ricominciò a piangere. Riuscirà a parlare meglio domani, signore, disse la vicina. Il miglior conforto per lei adesso sarebbe avere uno dei suoi figli vicino al cuore. Mi dispiace che hanno portato via il piccolino. Oh, me ne occupo io, disse Margaret. E dopo pochi minuti ritornò con in braccio Johnny, che aveva tutta la faccia sporca di cibo e le mani chiuse a guscio, piene di cose preziose e piccoli pezzi di cristallo, e con la testa come una figura di gesso. Lo mise tra le braccia di sua madre. «Ecco qui», disse la donna, «adesso andate. Piangeranno insieme, dandosi conforto a vicenda, come nessuno sa fare meglio di un bambino. Io mi fermerò qui con lei finché ce ne sarà bisogno, e se venite domani potete fare tutte quelle sagge chiacchiere che oggi lei non è in vena di fare». Mentre Margaret e suo padre Camminavano lentamente su per la salita. Lei si fermò davanti alla porta chiusa di Higgins. «Entriamo?» domandò il padre. «Anch'io pensavo a lui». Bussarono. E dato che non ci fu risposta, cercarono di aprire la porta. Era chiusa con la catena, ma a loro pareva di aver sentito i suoi movimenti all'interno. «Nicholas!» disse Margaret. Nessuna risposta. E quindi sarebbero potuti andare via credendo che la casa fosse vuota se all'interno non fosse caduto accidentalmente qualcosa, forse un libro. «Nicholas!» ripeté. «Siamo solo noi, non ci fate entrare?» «No!» disse. «Più chiaro di così non potevo dirlo senza usare parole, sprangando la porta. Lasciatemi stare per oggi!» Il signor Hale avrebbe continuato a insistere, ma Margaret gli mise un dito sulla bocca. «Non mi sorprende», disse. «Io stessa non desidero altro che stare da sola. Pare l'unico rimedio dopo una giornata come questa».